sentire mentre fai l'amore, o d'inverno in un giorno di sole. Quando non riesci a spiegarti con le parole, se nessuno capisce il tuo dolore. Non lo puoi sentire dopo 5 ore, a guardare la televisione. O quando l'uomo parla di affari, ed è il più feroce degli animali. Non lo puoi sentire tutto in un momento, quando nessuno ti viene incontro. Che non c'è vita senza calore, che non c'è solo con le parole. Ma se nessuno ti abbraccia forte, è sempre solo dolore, dolore. Lo puoi sentire tutto in un momento, che non c'è vita senza sentimento. Quando fai il militare, a scuola o lavorare. Io per esempio l'ho sentito là, in Germania col freddo che fa. Lo puoi sentire tutto in un momento, quando sei solo in mezzo al mondo. Ma non c'è vita senza amore, non c'è solo quando hai ragione. Se non mi tocchi fino in fondo al cuore, sono sempre solo parole, parole. Non lo puoi sentire tutto in un momento, che non c'è niente senza sentimento.